Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è proprio vero che cambiano in fretta le cose nel calcio. Sabato intorno alle 19 il Milan era fresco reduce dalla sconfitta con la Juve in Coppa Italia in casa e stava perdendo giustamente a Udine. Poi è arrivata quella papera di Handanovic, la replica peraltro di una già commessa a Torino sul gol di Matri, e da lì recuperando qualche giocatore e di conseguenza morale oltre che forza tecnica e fisica, parlo soprattutto di Boateng, e grazie anche alla straordinaria partecipazione collaborativa peraltro dell'Arsenal, si è passati alla grande serata di ieri a San Siro, probabilmente propiziata anche da quell'additivo ulteriore di aver saputo poco prima di scendere in campo durante il riscaldamento del pareggio della Juventus a Parma, fermata dal Parma ma anche oggettivamente da qualche decisione arbitrale su cui si può discutere a lungo. Se ne è discusso sin da ieri in termini nettamente eccessivi da parte dell'allenatore della Juventus Conte, eccessivi perché tutto dalle parole di Conte sembra far parte di un disegno e non dell'errore umano, che invece, che si sappia, insomma, dovrebbe essere l'unico parametro ammissibile se si accetta di partecipare a dei tornei. Però evidentemente Conte sa delle cose che noi non sappiamo. Sentiamolo proprio, io partirei da lì perché mi sembra il fatto, lo valuto anche da tutta la posta ricevuta nel frattempo, mi sembra la cosa che più ha fatto discutere della giornata di ieri. Conte e il segreto di Pulcinella. Sembra, si avverte nell'aria che comunque si abbia paura di fischiare a favore della Juve. Inizio a pensare, e questo mi dispiace veramente, perché io parto sempre dal presupposto che ci deve essere grande equità. Io ai miei ragazzi chiedo di allenarsi in maniera impressionante, perché vogliamo fare un campionato comunque straordinario così come stiamo facendo. Però chiedo anche, non chiedo favori, però non chiedo neanche che ci sia questo ostracismo nei confronti della squadra, di questi ragazzi. Non lo meritano. Mi sembra il segreto di Pulcinella questo qua. All'inizio del campionato mi sarei augurato, ecco, che così quell'aria che si respirava, perché questa non è una cosa solo di quest'anno, cioè, se andate a vedere indietro, mi sembra, e l'aria che percepisco è quello che comunque, se non si fischia a favore della Juventus, comunque non si sbaglia, comunque non si viene redarguiti, comunque non c'è un'esaltazione a livello giornalistico, l'arbitro va tranquillo. Io dico anche che due partite, le ultime due in cui abbiamo fatto 0-0, 0-0, c'erano delle situazioni che comunque invece di prendere due punti ne avremmo presi sei. Adesso staremmo parlando di Juventus in fughetta, no? Tra virgolette. Ostracismo è una parola molto seria, no? usata da un responsabile tecnico di una squadra, tra l'altro come la Juventus. Mi sembra abbastanza forte come presa di posizione. Ma la curiosità, c'è un vaghissimo ricordo di una cosa che Conte aveva detto all'andata, subito dopo Juventus-Parma, prima giornata 4-1, vittoria larga, credo la più larga di quest'anno e la più netta di quest'anno della Juventus. Mi era rimasto qualcosa nella memoria di vago e ho chiesto a Franco Piantanida di ripescarlo. Allora sentiamo che cosa aveva detto Conte dopo un 4-1 in casa della Juventus, ripeto, contro il Parma alla primissima giornata. Dopo, non alla primissima giornata, insomma, nella fase, forse alla prima addirittura, sì, direi di sì, adesso andiamo a vedere anche la data. A proposito di un rigore concesso al Parma nelle battute conclusive sul 4-0 per la Juventus. Sì, ecco, le cose che sicuramente non mi sono piaciute oggi sono due, che ho detto ai ragazzi, ma sono convinto che non sono piaciute neanche ai ragazzi. La situazione dell'89esimo, una gara stravinta, prendere un rigore, un'espulsione, sicuramente non ci deve far riflettere, ci deve fare anche arrabbiare. Se ci arrabbiamo per questo episodio, anche dopo una vittoria per 4-1, significa che siamo sulla buona strada. L'altra cosa che mi ha fatto molto arrabbiare, sicuramente alcune interpretazioni arbitrali, che non mi sono piaciute per niente. Primo tempo un rigore netto su Matri, un gol annullato, tante situazioni un po' dubbie. Non mi aspetto favori e regali, però voglio che si azzeri un po' tutto e che nessuno si erga paladino di giustizia quando venga ad arbitrare la Juventus. Questa è la prima giornata, quindi è evidente che dopo la ventesima il carico non poteva che, no, che aumentare, perché dipende sempre da dove parti, dal livello a cui parti. Se parti alto, come era partito Conte, poi sei costretto ad andare sempre più su, in maniera molto pericolosa, a parer mio, anche a giudicare delle reazioni che stanno arrivando a queste parole, a questi interventi. Questo è un capitolo. Ce n'è un altro, invece, che è di tutt'altro segno, che è il capitolo che ci arriva ieri sera da San Siro e che racconta di un Milan improvvisamente tornato, perché mi ricollego a quello che si raccontava all'inizio, il Milan di Udine, il Milan che aveva appena perso la Juventus, il Milan diciamo pure miracolato da una rimonta arrivata chissà come, grazie certamente a un errore del portiere e poi anche a una serie di circostanze fortunate e sfortunate soprattutto per gli avversari, l'infortunio di Isla tra l'altro molto grave, nelle conseguenze eccetera, e di colpo invece ieri sera tutti i meriti del Milan, certo con la concomitanza dei demeriti dell'Arsenal, ma è stato il Milan a prendere in mano il pallino della partita e a disintegrare lentamente gli avversari. Sentiamo la disamina di Allegri. Ma ragazzi, hanno fatto un'ottima partita, soprattutto abbiamo giocato da squadra, compatti quando c'era da difendere e bravi quando c'era da offendere. Dispiace che abbiamo avuto molte occasioni per incrementare ancora più il bottino e forse dobbiamo farlo. No, ho avuto il dubbio anche perché è rientrato da 4 settimane, in allenamento aveva fatto molto bene e dovevo scegliere, stamattina poi ho sciolto il dubbio, fortunatamente. Questo messaggio lei non lo leggerà mai, scrive Michele da Valenza, no? Che sono quelle formule leggendarie per cui veramente, ecco, facciamo così, non lo leggo, no, lo leggo solo perché leggendolo mi è venuta la battuta, la lamentela di Conte va bene e quella di Mazzarri no, vero? No, io sto dicendo che non va bene la lamentela di Conte, così come non va bene in queste proporzioni la lamentela di Mazzarri. Io trovo anche la differenza che quella di Mazzarri siano le lamentele di Pomigliano d'Arco, quelle di Conte cominciano ad essere le lamentele di Mirafiori e mi sembra che possono avere un peso specifico leggermente diverso sul campionato italiano di calcio. La parentesi internazionale in compagnia del nostro ministro degli esteri. Buongiorno Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. La domanda principale, poi ce ne sono altre, ma la domanda principale è questa. Il Milan di ieri sera, questo Milan che schianta l'Arsenal con 4 gol, che potevano pure essere di più, e che caratura ha nel panorama della Coppa Campioni di quest'anno? Perché insomma mancano le inglesi, poi vediamo le due squadre di Manchester cosa, che tipo di impegni hanno stasera. Il Chelsea non è certamente lo spauracchio di altre edizioni, l'Arsenal è già bello sistemato, quindi cosa fa? Restano le spagnole e il Milan a che distanza è realisticamente oggi da Real e da Barça? Io credo, Gigi, che il Milan sia in una ipotetica griglia di partenza in seconda fila, leggermente avvantaggiato rispetto al Bayern di Monaco che considero quarto, un po' staccato da Barcellona e Real Madrid, nel senso che a parer mio la prima fila è inattaccabile in questo momento, lo dimostra il Milan, poi tra l'altro il Barcellona l'ha già incontrato nella fase a gironi, ma comunque questo è un altro film, lo dimostra il fatto che comunque il Barcellona quando sente aria di Champions torna ad essere quella meravigliosa squadra, quindi in questo momento a parer mio, ma lo hanno detto anche ieri Galliani e Berlusconi, Barcellona e Real Madrid sono superiori proprio in quest'ordine, cioè prima c'è il Barcellona in pole position, poi c'è il Real Madrid. La speranza del Milan è qual è? Ovviamente non incontrare subito una delle due spagnole, certo. Magari sperare che loro si accoffino subito e quindi se ne faccia fuori una da sola e pescarne una in finale, giocando cioè in 90 minuti e non in 180, perché quando tu giochi con uno più forte, se riduci la distanza puoi dargli un bel cazzotto e puoi sperare che quello non riesca più a prenderti. Su 180 minuti io credo che Barcellona e Real Madrid oggi siano ancora ingiocabili. Detto questo, quello che ha fatto vedere ieri il Milan è un qualcosa del quale tenere conto e quindi è un qualcosa che fa pensare che in una serata di grazia il Milan anche queste due la possa battere, quindi diciamo che il titolo Milan è in forte ascesa in questo momento. Perfetto, era esattamente quello che immaginavo di sentirti dire, ma certo che così è tutto molto chiaro e molto nitido. C'è una griglia diversa di partenza dagli ottavi di finale dopo il risultato di ieri sera, ma dopo la prestazione soprattutto di ieri sera. Ricomincia quella stasera anche l'altro torneo europeo, quello che è sempre un incrocio tra una coppa di consolazione, una sinecura, un grande obiettivo quando si tratta di arrivare quinti anziché settimi in campionato, e poi invece appunto diventa una triste incombenza. Come l'affrontano anche in ragione degli avversari Lazio e Udinese? Guarda Gigi, l'affrontano nel miglior modo possibile per un motivo molto, molto semplice ma anche molto triste, cioè il fatto che hanno talmente tante assenze sia Lazio che Udinese che gli allenatori questa volta non avrebbero nemmeno la possibilità di fare tanto turnover per potersi dividere tra due impegni diversi, tenendo sempre conto che gli obiettivi di Lazio e Udinese in questo momento sono simili, ma che non credo ci sarà una sommossa popolare se l'Udinese non riuscisse ad arrivare al terzo posto o se la Lazio non ce la dovesse fare per arrivare terza. Cioè diciamo che non c'è l'acqua alla gola e la necessità di ottenere a tutti i costi un risultato che altrimenti non, se non ottenuto sarebbe etichetterebbe la stagione come disastrosa. La Lazio ieri Rey ha detto che farà fatica a metterne 11 in campo perché ha davvero fuori tutti. La stessa Udinese ha perso Di Natale, ha perso Isla per tutta la stagione e anche Badu è infortunato, per cui io credo che sinceramente questa sera non potranno essere accusati di aver fatto turnover o di aver cercato di trattare meno bene la competizione, che in realtà se vediamo le eredità che ha avuto dalla Champions League mi sembra una competizione molto molto solida con delle grandi squadre con magari qualche decaduta, perché comunque Ajax, Manchester United o Porto, Manchester City è certamente superiore a livello di pathos rispetto a Lione, Apoel o Zenit Benfica che abbiamo visto in questi due giorni. Non dimentichiamoci che però se le due di Manchester sono lì significa che non hanno meritato il passaggio del turno e quindi, certo. Quindi ci sta. Sì, e questa era, hai anticipato quella che era l'ultimo argomento di questo breve collegamento di oggi, e cioè proprio trovare le due dominatrici della stagione inglese quest'anno, trovarle in Europa League alla ripresa delle coppe. Hai detto bene, cioè è un demerito loro più che un merito di chi l'ha eliminata, no? Sì, tenendo conto che il City stava in un girone oggettivamente difficile, il Manchester United si è proprio suicidato, è vero. Si è suicidato. Però adesso sarà il caso che non lo faccia più, perché altrimenti quest'anno Ferguson rischia di non portare a casa trofei, per cui sarà il caso che questa Europa League tentino di vincere, come credo che tenteranno di vincere, anche se siamo ancora molto molto lontani. Certamente sì. Allora, grazie Fabio, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie Gigi, un saluto a tutti. Prossima settimana che vedrà il doppio impegno delle altre due squadre impegnate in Coppa, e cioè il Napoli col Chelsea martedì e poi Marsiglia-Inter mercoledì sera. Adesso sentiamo, in attesa dei vostri interventi, già prenotati peraltro, brevemente le vigilie di Lazio-Udinese, cominciando da quella di Reia. Noi bisogna affrontare questa gara qui col piglio giusto, e sappiamo bene che gol non bisogna prendere, soprattutto quando giochi in casa, perché è chiaro che poi devi faticare molto di più nel ritorno, e allora sicuramente l'equilibrio bisognerà tenerlo, però non lesinare a spendere energie per affrontare la fase offensiva nel migliore del modo, partecipando non solo con due uomini o con quattro, ma anche possibilmente con cinque uomini che affrontano la fase offensiva. È complicata la vigilia di Guidolin, certamente, perché ritrovarsi senza Isla e Di Natale, oltretutto col morale a terra per quella sconfitta bruttissima contro e immeritata, no? Fino a poco dalla fine contro il Milan, non è certamente un buon viatico. Non è un grande avversario il Pau di Salonicco. Insomma, morale, sentiamo che cosa ne pensa Guidolin di questo ritorno in Europa. È una squadra che è in buona salute, ha fatto bene in questa fase di campionato, la stiamo osservando, l'abbiamo osservata. È una squadra molto pericolosa, e quindi sì, la conosciamo i suoi giocatori, conosciamo tutto quello che si può conoscere di una squadra che gioca in un altro campionato, ma la cosa importante è che in questo momento loro sono in un momento molto positivo. Antonio ha chiamato da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Garanzini. Senta, io oggi con sommo dispiacere devo dire che capita molto raramente, ma non sono un po' d'accordo con lei su come ha un po', descritto queste parole di Conte, sul senso anzi date alle parole di Conte ieri sera. Ora, premesso che io appartengo ad un filone di idee culturali per cui sono radicalmente al fianco del mondo del lavoro, che non attraversa un grande momento in questo periodo. Ora, accostare certe espressioni, certe parole a problemi e problematiche così serie mi sembra un pochettino esagerato. Praticamente Conte che cosa ha detto? Ha detto una cosa rispecchiando dei fatti, dei dati di fatto, due episodi in due partite accaduti in un minutaggio finale delle partite che se fossero state date difficilmente sarebbero stati recuperati quei gol, e la rabbia era giustificata dal fatto che la Juve avrebbe avuto 4 punti in più. Ora, io segnandoli, sono d'accordo, segnandoli rigori, perché segnandoli. Mm-hmm. Ora è altrettanto vero che qualche domenica prima a Cagliari la Juve è stata favorita. Non a Cagliari, in casa contro il Cagliari. In casa col Cagliari, mi correggo. Se si vuole essere onesti bisogna dirla tutta fino in fondo. Ora, però il punto è questo, le parole di un allenatore che si vede dopo in pochissimi giorni 4 punti in meno in classifica, probabili, non sicuri, ma probabili, 4 punti in più con una partita in meno da recuperare, per una Juventus che è ritornata protagonista dopo tutto quello che è successo, e sì, su tutto quello che è successo io sono stato sempre d'accordo con lei, per come li ha commentati. Ma no, certo, fatti. Antonio, ma io non ho pretese di avere ragione e non vado in cerca di consensi. Che lei condivida mi fa piacere, se non condivide ci mancherebbe altro. Quello che conta è esprimere le proprie opinioni nella maniera più corretta possibile. Io trovo che un'espressione come ostracismo attribuito alla classe arbitrale a carico della Juventus mi sembri, secondo me, è un'espressione molto forte, è un'espressione sì, certo che è testimonianza di un, non è testimonianza soltanto di un momento di rabbia, perché se no si sarebbe usato, avrebbe detto qualcos'altro. È un'espressione molto forte, un'espressione che viene dal profondo e vuol significare altro. Conte ieri è stato sgradevole anche nei confronti di Giovinco, se permette, perché gli episodi incriminati erano tre. Io per quel nulla che vale la mia opinione le dico che se fossi stato Mazzoleni ieri avrei assegnato tre calci di rigore, perché tutti e tre quei rigori mi sembravano tali. Mi sembrava un rigore il primo episodio, perché Giaccherini probabilmente il Biabiani forse non lo vede, forse non lo vuole sgambettare, ma di fatto lo sgambetta, perché Giaccherini gli ruba il tempo di controllo su quel lungo lancio di Pirlo, uno tra l'altro dei non pochi magnifici lanci di Pirlo ieri a Parma. Sul secondo episodio in area della Juventus, secondo me è netto il rigore su Giovinco, perché Barzagli prima lo trattiene, poi si accorge che l'arbitro vicino lo molla, Giovinco è rimasto in piedi e a quel punto lo spinge ancora. Certo, non lo uccide, però quel tanto da sbilanciarlo e impedirgli di calciare, non dico a colpo sicuro ma quasi, verso la porta in posizione favorevole, lo fa. Quindi secondo me era rigore pure quello. E sull'ultimo episodio, che dei tre devo dire è quello meno plateale secondo me, o meglio è plateale in cui il modo in cui cade Pirlo, è forse un po' meno plateale l'episodio in sé, perché non so se Pirlo avrebbe comunque raggiunto quel pallone, ma insomma tutto questo non ha nessuna importanza. Su questi tre episodi Conte non ha avuto alcun dubbio sui due a favore della Juventus. Sentite invece che cosa dice su quello di Giovinco. È svenuto, ecco. Ecco, è svenuto. No, guardi, lascia stare, lasciamo stare per favore, perché io ho visto l'episodio e lì c'è ammonizione. Allora, o fischia rigore o dà l'ammonizione a Giovinco. E non ha dato l'ammonizione, siamo rimasti, però in compenso non ne ha fischiati poi due. Nel frattempo il giudice sportivo ha deliberato sui recuperi di ieri, su Parma-Juventus e su quello vinto dall'Atalanta sul Genoa. 30.000 euro di multa all'Atalanta per sputi. pubblico sempre sportivo, che hanno raggiunto il quarto uomo ad opera di una decina di sostenitori dell'Atalanta, che hanno lanciato anche monetine, che non hanno però raggiunto il bersaglio. Due squalificati per una giornata, Manfredini dell'Atalanta e Vidal della Juve, e per gli episodi avvenuti al termine di Parma-Juventus, il portiere del Parma, Mirante, che era in panchina, ha ricevuto un'ammonizione e un'ammenda di 5.000 euro per insulti al quarto uomo, mentre il preparatore atletico della Juventus, Bertelli, è stato squalificato per due giornate per insulti a un avversario. Poi c'è questa inchiesta molto, molto pesante, mi pare, che è in corso a Napoli, e di cui stamane il procuratore aggiunto di Napoli, Giovanni Melillo, ha dato conto nel corso di una conferenza stampa. Proprio, ripeto, per illustrare l'operazione che ha portato oggi alla notifica di 11 misure cautelari nei confronti dei tifosi violenti. Cito alcune frasi testuali da questa conferenza stampa del procuratore aggiunto di Napoli. Alcuni calciatori del Napoli mantengono contatti con i gruppi di ultra, anche perché ritengono che questi ultimi possano influire sulle scelte della società al momento del rinnovo del contratto. E questa è una che già non mi sembra lieve. Dopodiché Melillo, cioè questo magistrato, ha citato in particolare Lavezzi e alcune dichiarazioni del calciatore rese nell'ambito di un'altra inchiesta e confluite poi nell'ordinanza cautelare di oggi. E poi ha aggiunto: tutti i gruppi ultra presenti allo Stadio San Paolo sono ostili alla società Calcio Napoli, ritenuta responsabile di non far svolgere le gare in maniera indisciplinata e violenta e di non consentire dunque agli esagitati di poter avere libero campo e libero accesso alla struttura. Poi ci sono altri capitoli che riguardano in particolare uno dei capi ultra ritenuti responsabili, ma insomma si delinea un quadro in cui il Napoli Calcio è evidentemente parte lesa per via di questi gruppi ultra, e non escludo che poi da qui in avanti il salto successivo possa essere quello di collegare alcuni episodi di malavita che si sono succeduti nei mesi scorsi a danno di calciatori del Napoli o di loro familiari. L'inchiesta credo che potrebbe anche arrivare da quelle parti. Gianni ha chiamato la provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno a lei Garasini. Senta, siccome la mia memoria anche è ancora abbastanza viva, mi ricordo che lei ha sempre sostenuto la tesi da anni, parlo del 33% delle tre grandi per la protezione tra virgolette arbitrale, ma ora io le chiedo se a distanza e a diciamo dopo questo campionato, dopo già gli ultimi due o tre campionati post Caciopoli, lei ritiene ancora che la Juve sia rappresentata in questo 33% di favoritismi arbitrali? Basta, null'altro, la ringrazio. Grazie a lei. Il mio 33% era sull'antipatia personale nei confronti di queste squadre, o diciamo sulla non simpatia per ciascuna di queste tre squadre, e quindi non riguardava minimamente trattamenti arbitrari di sorta. In dettaglio, se vuole, per quanto riguarda quest'anno, io so che l'arbitro Mazzoleni, che ieri secondo me ha commesso un paio di errori gravi, almeno due, forse tre, l'arbitro Mazzoleni non più tardi di 8 giorni fa esattamente aveva arbitrato molto bene a San Siro Milan-Juventus 1-2, e quindi se avesse fatto parte di una congiura, di una lobby tendente a bloccare la risalita della Juventus ai vertici, probabilmente avrebbe agito già allora. Se n'era ampiamente lamentato il Milan di Mazzoleni in occasione del debutto in panchina di Delio Rossi sulla panchina viola quest'anno, un Fiorentina-Milan 0-0, in cui il Milan ebbe oggettivamente di che lamentarsi per un paio di episodi non molto diversi da quelli diversi nelle modalità, perché il calcio per fortuna è sempre diverso da tutto il resto del calcio, ma non molto diversi sul piano del danno in Fiorentina e Milan, ripeto, quindi da questo punto di vista proprio nulla, direi. Massimo, provincia di Monza e Brianza. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Sono tifoso juventino, nonostante tutto non sono d'accordo con le dichiarazioni che ha fatto Conte ieri sera, pur avendo magari tutte le ragioni possibili e immaginabili. In realtà sui probabili o possibili 4 punti che la Juve non avrebbe avuto attraverso questi rigori, sempre se poi fossero stati segnati eccetera eccetera, non ha fatto in casa con le quattro squadre che, secondo il mio punto di vista e modesto parere, erano altro che alla portata della Juventus. Ricordiamo che il Bologna di Bisoli, l'unico punto che ha fatto, l'ha fatto proprio con la Juve, in casa della Juve. Quindi, secondo il mio punto di vista, mancano i gol di Vucinic, che fino a questo momento è praticamente un fantasma, ripeto il mio modesto parere, e quello è quello di, insomma, il contributo di Matri, che l'anno scorso è stato sicuramente decisivo. Forse perché Marchisio non è in particolare forma, probabilmente il gioco della Juve non esprime tutto quello che ha fatto vedere all'inizio del campionato. No, secondo me no, Massimo, ma resti in linea che così ne parliamo, che così proviamo anche a parlare di calcio una volta ogni tanto. Io credo che alle punte Conte chieda troppo da un punto di vista atletico e da un punto di vista di rientro e di dispendio energetico. Mi sembra di rivedere in certi momenti la fatica che facevano gli attaccanti del Parma di Scala. Scala aveva inventato un 3-5-2 o un 5-3-2 a scelta inizio anni 90, quando il Parma salì in Serie A, che era molto bello, molto funzionale, molto organizzato, molto colto, era corto, direi, tutte e due le cose. Però avevano un problema: Melli e gli altri attaccanti, quando arrivavano, quando finalmente erano in area, erano fatti, erano strafatti dalla fatica. Ora, ovviamente sto esagerando, ma è per così, è per arieggiare un concetto, perché Vucinic sta facendo fino alla tre quarti, fa un magnifico lavoro, ma se fa quel magnifico lavoro fino alla tre quarti, dopo è dura cantare dopo aver tanto portato la croce. E mi pare che valga un pochino anche per Matri e per gli altri, o secondo lei no? No, io in un certo senso sono anche d'accordo, però credo, se non ricordo male, che lo stesso lavoro che fanno i tre attaccanti della Juve in questo momento lo facevano anche quella nella Juve di Lippi, cioè Ravanelli, Vialli e Del Piero. Quindi credo che un po' di differenza forse tecnica fra questi giocatori quelli che hanno giocato nella Juve, diciamo, forte, diciamo così, cioè, insomma, secondo il mio punto di vista. Quindi secondo me Conte dovrebbe fare questo tipo di riflessione e forse chiedere al presidente, anziché dichiarare guerra al calcio, anziché dichiarare guerra a Del Piero e chi più ne ha più ne metta, fare una seduta e discutere, insomma, di queste cose, secondo il mio punto di vista. Sarebbe una buona riflessione, in effetti, ma io capisco la rabbia di Conte, perché io mi metto nei panni di un allenatore, non riesco a vincere la partita di ieri che ho dominato, perché oggettivamente la partita di ieri la Juventus l'ha dominata, che già mi è girata male dopo 4 minuti perché Chiellini ha schiacciato quel pallone in area che ha preso la base del palo, se va dentro quella palla la partita cambia completamente. Comunque l'iniziativa l'ho mantenuto, ho fatto un sacco di gioco, certamente non brillante, ma l'ho fatto. Ci sono anche un paio di episodi negativi da un punto di vista arbitrale, e oggettivamente mi pare che ci siano. Ce n'era anche uno invece a favore, e di quello non accuso ricevuta, no? Perché è ovvio lo stress e poi il fatto che l'obiettività è questa sconosciuta nel calcio, ma insomma questa non può essere una novità. Io capisco che arrivi alla fine sia abbastanza nero. Non capisco quando esagera, ed esagera sia nei confronti di Giovinco, cioè dell'episodio contrario, ma soprattutto esagera in questa costruzione di questo teorema secondo cui c'è paura a fischiare qualcosa per la Juventus. Ma paura di che? Cioè, ma dove? Ma perché? E soprattutto, salta fuori alla 21esima e 22esima giornata questa paura di colpo possibile, che prima né lui né nessuno si fosse accorto di questa. Sembra strano, ecco. Francesco Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Secondo lei il Milan, visto ieri sera, recuperando ancora qualche infortunato, può ambire a vincere la Champions League? E poi posso farlo ancora una domanda su Conte? Mi dica di sì. Sì. Sì. Ecco, volevo sapere, ma il Conte, visto tanto comunque la Juve si vanta tanto di essere imbattuti, però nel frattempo ha fatto anche 10 pareggi, se non sbaglio, se non di più, si dovrebbe chiedere come mai questi 10 pareggi fatti, se non equivalgono, non dico quasi come delle sconfitte, però ci siamo quasi, considerato che il Milan ha 4 sconfitte ma in testa la classifica anche con una partita in più. Questa è una differenza di caratteristiche: il Milan vince di più perché ha più attacco, perché ha più risorse al suo arco, infatti ha segnato parecchi gol di più. In compenso la Juventus è la migliore difesa del campionato. Sono due modi diversi ma non forse di giocare in origine, ma sono caratteristiche diverse delle due squadre, insomma. Torniamo in onda con Nicola Filippone e la sua rubrica dedicata oggi al 16 di febbraio. Sembra ieri. 16 febbraio 1930. A 16 anni, 4 mesi e 18 giorni, Silvio Piola debutta in Serie A. La sua Pro Vercelli, guidata dal tecnico ungherese Joseph Nagy, pareggia 2-2 in rimonta sul campo del Bologna. Piola non segna, ma entra subito nel vivo del gioco e fornisce alla mezzala Giuseppe Seccatore l'assist per il primo gol. L'avventura di Piola nella massima serie durerà ben 24 anni, contrassegnati da 274 gol, 290 se si considera anche il torneo 45-46, realizzati con le maglie di Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara. Un bottino che fa di Piola l'attaccante più prolifico nella storia della Serie A. Oh, torniamo con altri interventi già prenotati, beh, anche con qualche messaggio. Vada a rivedersi l'arbitraggio di Mazzoleni di Coppa, c'erano due rigori su Borriello, scrive Gabriele da Torino. Sì, no, Borriello si è lasciato cadere almeno quattro volte, quindi forse erano quattro rigori, non due. No. Perché dobbiamo limitarci? Quattro, forse cinque. Michele Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Volevo fare due riflessioni sul Milan e la Juventus. A parte che io sono convinto che quest'anno in campionato non c'è una squadra leader, basta vedere la mancanza dell'Inter e della Roma, che hanno più bassi che alti, e il Milan e la Juventus. Il Milan è una squadra che non riesce a vincere con le cosiddette grandi e la Juventus fa il contrario. Questo dimostra che comunque non c'è una squadra leader. Infatti sono in pari punti in classifica, anche se la Juve e Juventus un punto in meno. Poi un'altra cosa volevo dire sulla Champions di ieri del Milan. Io sono faccio una premessa e sono un tifoso interista. Il Milan ieri ha disputato sicuramente una grande gara, un 4-0 in Champions, non si vede tutti i mercoledì, giusto dottor Garzini? Cioè, 4-0 voglio dire è un risultato, una vittoria squillante ha fatto il Milan. Detto questo, però, bisogna anche valutare la forza dell'Arsenal di ieri sera. Mi è sembrata una squadra un po' rinunciataria, con forse difficoltà sulla linea difensiva, e in mezzo al campo faceva veramente acqua. Loro due centrali in mezzo al campo, non vedevo giocatori. Disastro l'Arsenal di ieri sera, su questo non c'è nessun dubbio, però bisogna anche vedere chi hai davanti che tipo di pressione ti mette, eccetera. Milan ha giocato una partita praticamente perfetta dall'inizio a fin quasi la fine, poi proprio fino alla fine no, perché comunque sul 3-0 la qualificazione non era già più in discussione, ma sul 3-0 se non fa un miracolo Abbiati comunque vai sul 3-1, no, non succede niente di grave, ma altro è presentarsi a Londra sul 4-0, altro è presentarsi sul 3-1. Ma diciamo che per un'ora abbondante il Milan è stato praticamente perfetto, quindi direi nettamente superiori i meriti del Milan, ma certo non si possono dimenticare i demeriti di una squadra che è smandrappata come l'Arsenal di ieri sera, questo è indubbio. Andrea ha chiamato da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, grazie per la linea. Ascolti, io sono un forte tifoso juventino e dopo ieri sera mi sento un po' frastornato, un po' perché stimo Conte, ma dall'altro lo considero anche un po' esagerato quello che ha detto ieri. Però volevo fare una riflessione proprio tecnica. Secondo me la Juventus ha proprio fuori forma completa sia Vidal che Marchisio. Vabbè, non dico niente di nuovo. No, infatti. Però ogni tanto è bene ripassarlo. Insieme. Però secondo me il punto è proprio quello. Non abbiamo alternative a questi due giocatori che ci hanno trainato nella prima parte di campionato. E adesso questi pareggi, nonostante che ieri poi meritavamo i tre punti, perché secondo me erano meritati. Certo, d'accordissimo. Però noi adesso che ci servono questi due uomini non li abbiamo, quindi secondo me il campionato comincia a scricchiolare un po' la Juventus, perché il Milan queste partite qui le vince, perché ha non solo Nocerino, non ha solo Boateng, ma c'ha anche solo Ibrahimovic, c'ha Robinho, c'ha tutta questa gente qui che comunque va a tappare i buchi di una mancanza. La Juve purtroppo con due mancanze pesanti che sono, ripeto, Marchisio e Vidal, non ha chi li copre, insomma, niente, questa è la mia riflessione. Che è una riflessione, mi sembra, intelligente e documentata, caro Andrea. D'altra parte, io continuo a sostenere, e non sono certamente l'unico, che se mettiamo se mettiamo le due squadre su una bilancia e le mettiamo intere, e cioè con tutto l'organico a disposizione, non dico che non c'è corsa, ma non c'è tanta corsa comunque, perché il Milan è più forte oggettivamente. La stagione fino adesso è andata così perché il Milan ha avuto un sacco di disavventure, soprattutto in termini di infortuni. Basti pensare a qual era la formazione ancora con la quale ancora una settimana fa ha dovuto giocare proprio contro la Juventus. Poi passano 7-8 giorni, recupera 2, 3 o 4 di quei pezzi grossi, e si vede subito come cambia la situazione. La Juventus quest'anno non può certamente lamentarsi di come è andata da un punto di vista fisico, no? E questo è un merito, intendiamoci, perché vuol dire preparazione perfetta, vuol dire allenamenti come si deve, vuol dire se pensiamo anche alla falcidia di infortuni che la Juve ha subito negli ultimi anni, vuol dire cambiamento di metodo, ma cambiamenti nettamente in positivo. Però appunto, calcolando le disavventure degli uni e il fatto che sia andato quasi tutto liscio agli altri, insomma, si torna a pensare, io non ho mai cambiato idea che il Milan sia più forte. Poi se invece si creano quelle situazioni di squilibrio che ci sono state, la Juventus è stata brava ad approfittarne per arrivare fin lì, e da qui in avanti vediamo. Roberto Piacenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo dire la stessa cosa che ha detto prima l'ascoltatore, insomma, sì. Che alla Juve adesso manca Marchisio, Vidal, ma anche perché all'inizio aveva giocato molto bene, di conseguenza adesso le difficoltà vengono per questo motivo qua. Beh, Roberto, è un calcio molto dispendioso quello che pratica la Juventus, e ci sono dei settori del campo in cui non ha ricambi, o comunque ha pochi ricambi. A metà campo, per esempio, di ricambi proprio non ne ha. Già si sta centellinando e superdosando Pirlo in una maniera assolutamente perfetta, però quel tipo di calcio, ripeto, che oltretutto è così dispendioso, insomma, alla lunga qualche traccia la lascia, soprattutto in questo periodo in cui gli impegni per casini di calendari, rinvii, Coppa Italia, eccetera, gli impegni ravvicinati che sembravano toccassero solo alle altre, invece sono toccate anche a lei. Gennaro, Napoli, buongiorno. Salve, buonasera a lei, Ranzini, complimenti per la trasmissione. Volevo riprendere, ahimè, a malincuore, quel discorso di quei tifosi vaccinosi che sono stati appena arrestati o quantomeno segnalati, sì, della tifoseria napoletana. Mi ricordo i tempi di Maradona, per tornare alla famosa famiglia di Forcella, che già da allora sono intervenuti per insidiare quantomeno l'andamento di alcune partite, e non andiamo oltre. Stesso dicasi, probabilmente, forse come accennato stesso lei, sta accadendo anche ora, con l'intervento sulla moglie, sulla compagna di Avezzi, piuttosto che sulla moglie di Amici. Questa è un'ipotesi che io ho fatto, e certamente mi pare che già quello che ha, senza fughe in avanti, già quello che il procuratore di Napoli ha detto oggi mi sembra sia più che sufficiente per essere comunque in allarme. Grazie del suo intervento, purtroppo il tempo sta scadendo, sicché c'era Roberto Scaltritti in regia, Franco Piatalida in redazione. Grazie a tutti, buon pomeriggio.